Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Mi fai stare bene, mi fai stare bene. Sembri l'alba di un mondo che siamo noi. Shabada. Ma come va? Domanda, eh? E ci sono tante persone che rispondono: beh, per adesso bene. Ecco, quel per adesso, intanto buongiorno, per adesso stiamo insieme, ma stavo riflettendo che in tante occasioni quando qualcuno ci chiede, o siamo noi a chiedere all'amico come va il suo mal di testa, il suo magari mal di schiena, sappiamo che ha avuto un problema, un dolore alla spalla, la risposta non è subito bene, ma per adesso bene, quasi ci fosse un'attesa. Bene, sapete che tutto questo è stato così indagato dalla ricerca, c'è una motivazione, c'è una spiegazione, ci sono anche delle indicazioni. Ci facciamo raccontare tutto da una grandissima amica della nostra trasmissione, un medico ma anche una scrittrice, beh lo sapete già, Maria Giovanna Luini, che è qui in studio con me. Ciao. Ciao, buongiorno. Come va? Benissimo. Ma sai che tra l'altro Umberto Veronesi diceva che quando ti chiedono come va devi sempre rispondere bene, ed era un precursore, perché adesso la ricerca ha dimostrato, e c'è più di uno studio, quindi gli studi sono tanti, che se noi ci aspettiamo un sintomo, un dolore, un momento di nausea, un effetto collaterale da una terapia, aumentiamo almeno del 48%, attenzione, 48% la probabilità che tale sintomo si verifichi. Cioè l'aspettativa del sintomo, del dolore, del problema, ne aumenta la probabilità, come se il corpo fisico si organizzasse per accontentarci. Vabbè, vuoi il sintomo, te lo porto. Eccolo. Allora, è una questione abbastanza rilevante, soprattutto quando ci sono terapie di mezzo. Addirittura le ricerche hanno dimostrato che alcune persone che sanno di dover fare la terapia domani, oggi possono sviluppare preventivamente effetti collaterali da farmaci che non hanno ancora assunto. Quindi la risposta del per adesso bene, quando significa sì, bene, però forse potrebbe venirmi quella roba lì, è molto pericolosa. Quindi seguiamo le indicazioni del professor Veronesi, che come sempre ci aveva visto, esatto, prima e lungo, come si sempre dice bene. Bene, bene. Anche perché quel bene che noi diciamo è un messaggio prima di tutto a noi. Perché il nostro cervello registra tutto. Il nostro sistema. Il nostro sistema. Perché il cervello, calcola che il cervello è dappertutto, la mente attraverso i neuroni è in tutto il corpo, noi le vie nervose le abbiamo in tutto il corpo, i messaggi… Siamo tutto cervello, siamo tutto cervello, tutto cervello e tutto cuore. Sì, e diamo il messaggio a tutto il corpo, ma la Montalcini, che penso voglio sia dire almeno credibile, diciamo, diceva che ciò che noi introiettiamo come emozione, come input… diventa un ormone, diventa un neurotrasmettitore, diventa una roba fisica. Quindi, quando ti chiedo come stai, spero che tu voglia rispondermi bene, perché stai dicendo a te stessa: sì, se anche c'è qualche magagna, io sto bene. Ti dico, corpo, che stai bene. Mettiti tranquillo, anche perché, sai, tante volte parliamo con, così, con amici, con colleghi, parliamo con i medici, sull'importanza della prevenzione, sui passi avanti che ha fatto la ricerca, sull'importanza dei controlli, ma dall'altra parte si sente, e molti medici anche lo affermano, il rischio è un po' di creare una società, no? di persone che aspettano di ammalarsi, sì, o si sentono ammalate. Concordo assolutamente. Sai che io promuovo la prevenzione, io stessa sono stata salvata dalla prevenzione. Quindi non posso fare altro che testimoniare con la mia vita oggi che questa funzioni, però dipende anche da quanto come, e come la proponi. Sì, sì, ma anche come la proponi, perché certo, è evidente che se una persona mi può rispondere che sta bene quando chiedo come sta, Però se da medico fino a un minuto prima le ho spiegato principalmente tutte le disgrazie che le possono capitare prendendo un farmaco, facendo un certo esame, oppure... Ecco un po', non so se ti ricordi che c'erano, si vendevano quei gli impermeabilini usa e getta, sì. E avevano in una confezione c'era scritto se non piove pioverà. Esatto. Ecco, è un po' spesso la salute, la prevenzione ci vengono proposte con... parole, espressioni, modi che suonano così. Sì. Ecco, è un modo di raccontare le cose, raccontare la prevenzione che può fare la differenza. Perché, ma la fa, ecco. La fa, ma te lo dico perché il mio osservatorio è un osservatorio quotidiano. Certo. C'è gente che si allontana dalla prevenzione perché è terrorizzata da messaggi che sono veramente neri. Di solito riguardano gli esami da fare. Oppure lo stile di vita. È innegabile che lo stile di vita sia importante, lo diciamo e lo dici anche tu tutti i giorni, però dipende da come viene presentato, anche perché tu sai benissimo che purtroppo alcune malattie riguardano anche chi ha uno stile di vita sano. E allora i messaggi estremi, eccessivi, aggressivi o assoluti, prima di tutto mentono, perché la medicina non ha tutte queste granitiche certezze. La medicina fluisce, ricerca ciò che oggi non sarà domani, più o meno, e poi perché comunque la psiche della gente riceve una botta incredibile quando si sente dire tu sei in pericolo. Siamo persone sane, siamo persone che se incontrano una malattia la possono affrontare, quindi siamo persone che stanno bene. Questa è la base. Poi ci sono procedure che ci aiutano oppure no. All'inizio dell'anno ci sono tanti buoni propositi, li facciamo tutti. Tra questi sicuramente ci sarà anche quello di è un anno che rimando l'appuntamento dal dentista, è un anno che dimentico di prenotare la visita del ginecologo, mi è arrivato dalla regione l'invito a partecipare allo screening di... Ecco, c'è chi fa spallucce, chi si spaventa, chi lo vive con una... Con pathos. Ecco. Tipo, ti devo anche dire che sono arrivata uno dei giorni fa che sono venuta in radio a trovarti, una tua collega mi ha detto, ho fatto lo screening mammografico, quando dopo 10 giorni ho ricevuto una chiamata, chi mi ha chiamato mi ha detto venga perché c'è un problema nella mammografia. Allora, è un esempio di come le parole, poi non c'era il problema, non c'era, era un controllo normale. Però la scelta delle parole è la prima prevenzione. C'è anche un bello studio a proposito di comunicazione che tu mi avevi invitato a leggere, che sottolinea quanto il gruppo possa fare la differenza anche nella comunicazione della diagnosi. Sì, assolutamente. C'è questo studio interessante che dice che l'aiuto psicologico in chi ha una diagnosi di malattia aiuta, ma funziona di più se è in un contesto di gruppo. Quindi il gruppo aiuta, secondo me, è perché diversi punti di vista sorreggono di più rispetto a un confronto uno a uno. Allora chiudiamo con come stai, Giovanna? Oh, sto molto bene, grazie a tutti voi. Sugar. Eccolo qui, è ritornato il nostro medicuoco quasi cuoco, pronto per una ricettina. Dottore Zegovesi, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Allora, la ricetta di oggi è dedicata a chi si è messo a dieta o insomma sta cercando un pochino di controllare le calorie, quello che mangia, ma sente il bisogno del dolce, mi manca il dolce. Dottore Zegovesi, ha una ricettina per il nostro amico? In questi casi facciamo delle verdure dolci. Non storcete il naso, dice come io ti chiedo la torta, il pasticcino e tu mi dai la verdura. Ma questo già al mattino cosa mi dice? La verdura dolce, guardate che ha il suo perché. Certe verdure, immaginiamo soprattutto le liliacee, quindi cipolla, scalogno, porro, piuttosto che la zucca, hanno questo potere che avendo una percentuale di zucchero molto bassa, ma molto ben distribuita, quindi assorbita con molta lentezza, se noi le mangiamo in maniera abituale, quindi cerchiamo almeno una volta al giorno di mangiare una liliacea, avremo quel poco zucchero sempre presente, che ci dà una sensazione a livello gustativo di sentire, non immaginiamo un effetto bomba che lo facciamo oggi e già subito lo sentiamo, ma nel corso delle settimane avremo meno voglia di dolci. Quindi la cosa più semplice che vi consiglio è una cottura nello stile della cucina kosher, cioè una stufatura lenta in padella, che vuol dire taglio le cipolle, le affetto, le metto in una padella antiaderente, ci metto un goccino d'acqua giusto per evitare che attacchino, un filo d'olio, un qualche aroma per la cipolla, io trovo che ci stia molto bene un pochino di cumino, piuttosto che un pochino di rosmarino, piuttosto che una qualsiasi spezia che vi piace. Coperchio, mi raccomando, un coperchio che tenga bene, perché deve perdere il meno vapore possibile. Fuoco al minimo. E aspettiamo semplicemente che la cipolla rilasci tutti i suoi succhi saporiti, ma contemporaneamente che la fibra, che è bianca quando non ci fa bene, diventi trasparente, che vuol dire che è una fibra che si è idratata. A questo punto controlliamo se c'è l'acqua che manca, ci mettiamo un altro filino d'acqua e la lasciamo riposare nel momento in cui è cotta. Mescoliamola, aggiungiamola alla nostra pasta, al nostro riso, piuttosto che mangiamola così com'è, come antipasto, avremo un piccolo antidoto per la voglia di dolci. A chi non piace la cipolla si può... Zucca. Ecco. Verdure dolci della famiglia delle verdure tonde, quindi zucca. Medicuoco, quasi cuoco. Oggi abbiamo rischiato, eh? Abbiamo detto, hai voglia di dolce? Uno si vedeva, non so, la brioche con la crema, il muffin, la tavoletta di cioccolato, cucina le cipolle. Zuppetta di cipolla. Le 6:15 del mattino, magari col caffè. Ma proviamo. A domani, grazie, buona giornata.